20 Va ora in onda l'artiglio. Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2010, questo è l'Artiglio, il vostro settimanale di approfondimento cinematografico. Torniamo dopo una settimana di stop, una breve sosta ai box per noi di Radio 2010, una sosta che ci ha impedito la settimana scorsa di introdurvi quella che probabilmente è la più grande novità in sala della primavera estate cinematografica italiana. È uscito infatti venerdì scorso nelle sale l'attesissimo seguito di Iron Man. Sto parlando di Iron Man 2, un film diretto da Jon Favreau, ancora una volta con Robert Downey Jr. nei panni del protagonista, il multimiliardario Tony Stark. E parliamone in breve di questo Iron Man 2, che ha incassato nel primo weekend di programmazione ben 3.570.000 euro. Tony Stark ha ormai rivelato al mondo intero la propria duplice identità e si trova stretto in una pericolosissima morsa, da un lato dal governo che prova ad impadronirsi della sua tecnologia e dall'altra da una pericolosissima alleanza fra un folle imprenditore e un pericoloso criminale in cerca di vendetta. E non l'abbiamo fatto la settimana scorsa, andiamoci a sentire qualche breve estratto dal trailer italiano ufficiale di Iron Man 2. La nostra priorità è di far riconsegnare l'arma Iron Man agli Stati Uniti d'America. Io sono Iron Man. L'armatura e io siamo un tutt'uno. Al di là di ciò che pensa la gente, so esattamente che sto facendo. Ops! Iron Man è un pezzo d'antiquariato. Il signor Stark esibisce narcisismo da manuale. Concordo. E Iron Man 2 dunque che si piazza, come era prevedibile, al primo posto nella classifica italiana degli incassi al botteghino, seguito da un'altra new entry, dal documentario di Jean-Jacques Mantegno, Oceani 3D, anche questo uscito venerdì scorso nelle sale, che porta a casa questa settimana il discreto risultato di 918.000 euro, sfiora dunque il milione di euro di incassi. Questo documentario arricchito nella versione italiana dalle voci del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ancora una novità in classifica al terzo posto, Cosa voglio di più, il nuovo film di Silvio Soldini con Pierfrancesco Favino e Anna Rohrwacher, che incassa 650.000 euro questa settimana. E prepariamoci qui in Italia a congedare dalla top 10 L'uomo nell'ombra, il nuovo film di Roman Polanski, in decima posizione questa stavolta, la quarta settimana di programmazione, con un totale in Italia di oltre 3 milioni di euro di incasso. Ottimo risultato dunque per questo film che si appresta a lasciare la nostra top 10. Novità al vertice in classifica anche per quanto riguarda gli Stati Uniti. Il film che si piazza in prima posizione con un notevolissimo incasso di oltre 32 milioni di dollari è Nightmare, e Nightmare on Elm Street, questo è il titolo originale del lungometraggio diretto da Samuel Bayer, un prequel che a 25 anni dal primo capitolo della saga ricostruisce le origini del terribile killer Freddy Krueger. Nightmare sarà in Italia quest'estate a partire dal prossimo venerdì 20 agosto. al secondo posto della classifica statunitense al botteghino, continua la sua galoppata trionfale verso i 200 milioni di dollari di incasso. Dragon Trainer, il film di animazione della DreamWorks Pictures, che questa settimana incassa oltre 10 milioni di dollari. Stabile nella top 3, al terzo posto, Notte folle a Manhattan, Date Night, una commedia diretta da Shawn Levy, della quale avremo occasione di parlare fra poco. Lascia la top 10 americana Alice in Wonderland, il film di Tim Burton, all'ottava settimana di programmazione con un incasso lordo di circa 330 milioni di dollari. Questa era dunque la situazione al box office per il weekend appena trascorso. Passiamo alla sezione delle news dal mondo del cinema e partiamo parlando di due grandi autori e registi statunitensi. Stiamo parlando nella fattispecie di David Cronenberg e Ridley Scott. Cronenberg, che a 3 anni dal suo La promessa dell'assassino torna dietro la macchina da presa, lo fa ancora una volta con Viggo Mortensen nei panni del protagonista. Il titolo del lungometraggio, le cui riprese inizieranno a breve in Germania, sarà The Dangerous Method, una pellicola ispirata alla pièce teatrale The Talking Cure, scritta da Christopher Hampton e rappresentata con successo nel 2003 a Londra. La storia è quella del tormentato rapporto fra il padre della psicanalisi Sigmund Freud e il suo pupillo Carl Jung e della relazione fra quest'ultimo e la nevrotica paziente Sabine. Inizieranno quest'estate dunque le riprese di The Dangerous Method. E passiamo a Ridley Scott. Un Ridley Scott attivo quanto mai in quest'ultimo anno. Scott che aprirà il prossimo Festival di Cannes con il suo Robin Hood, un film in Italia dal 2 maggio prossimo. E il regista di Robin Hood ha recentemente rilasciato interessanti dichiarazioni sul prequel di Alien, per il quale l'inizio dei lavori pare ormai imminente. Scott ha infatti dichiarato che la sceneggiatura è pronta e addirittura alla quarta stesura e che tra l'altro fervono i lavori di un set di designer per quanto riguarda la definizione della scenografia, scusate. Scott non esclude tra l'altro che possa essere richiamato il leggendario Geiger, curatore della scenografia dei primi capitoli della saga. Non solo cinema però per Ridley Scott, anche TV. Il regista infatti realizzerà, stavolta nelle vesti di produttore, una miniserie in 4 puntate, tratta dal romanzo storico Pompei di Robert Harris. La produzione, targata Sony Pictures, in un primo momento doveva essere un lungometraggio diretto da Roman Polanski. Dunque Ridley Scott attivissimo quest'anno. E spazio anche per le onorificenze nella nostra rubrica delle news. Una notizia questa che vede protagonista infatti uno dei padri della commedia americana. Stiamo parlando dell'83enne Mel Brooks, che ha ottenuto finalmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, stella numero 2046 per questo genio creativo che con le sue farse e parodie ha contribuito in maniera determinante a definire i canoni della comicità statunitense di matrice ebraica. Per chi non lo conoscesse già, Mel Brooks è stato regista di capolavori della commedia come Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, Frankenstein Jr. o Dracula Morto e Contento. Brooks è tra l'altro uno dei pochi individui al mondo ad aver vinto tutti i maggiori premi riservati al mondo dello spettacolo americano. Ha vinto un Oscar nel 1968 per The Producers, ma ha anche collezionato 3 Emmy Award, un Grammy, 3 Tony Award. Dunque davvero una carriera straordinaria per Mel Brooks, al quale vanno ovviamente i complimenti miei e di tutta la redazione dell'Artiglio. E chiudiamo la nostra rassegna con una notizia che arriva da uno dei quartieri più controversi della nostra città, da Scampia. Scampia, che da teatro quotidiano di violenza e degrado si è trasformato per una notte, per la notte del 27 aprile, in una speciale sala di proiezione. è infatti stato proiettato a pochi passi dalla villa comunale di Scampia il nuovo lavoro del regista newyorkese Abel Ferrara. Stiamo parlando del suo Napoli, Napoli, Napoli, un docufiction che fra cronaca e finzione realizza un crudo ritratto della città partenopea. Un film questo realizzato da Ferrara con la preziosa consulenza dell'ex microcriminale, adesso produttore cinematografico Gaetano Vivaio, e del sempreverde scrittore Beppe Lanzetta. Dunque, dal Bronx newyorkese di King of New York al Bronx nostrano. Ancora una volta Ferrara torna a raccontare la lotta per la sopravvivenza, una lotta che non conosce confini geografici o politici, la lotta di un'umanità ai margini, schiacciata dal peso di un'esistenza di povertà e violenza. Questa era la notizia che chiude la nostra rassegna. E passiamo subito alle novità in sala per questo weekend, partendo con un felicissimo debutto alla regia. Parliamo di cinema italiano. Debutta infatti questa settimana alla regia Stefania Sandrelli con il suo Christine Cristina, una biografia storica ambientata alla corte del re Carlo V il Saggio, dunque nella Francia del XIV secolo. La storia è quella di Christine de Pizan, cresciuta alla corte di Carlo V, appunto, e proprio dalla corte rifiutata dopo la morte del re. Nei bassi fondi parigini, Christine lotta per la sopravvivenza, scoprendo, grazie all'amicizia di un menestrello ubriacone, la propria capacità poetica. Un impegnativo debutto dunque in costume per Stefania Sandrelli da regista. Stefania Sandrelli che dirige un cast nel quale figurano la figlia Amanda assieme ad Alessio Boni ed Alessandro Haber. Alla sceneggiatura aveva inoltre partecipato il grande Furio Scarpelli, scomparso recentemente a Roma lo scorso 28 aprile. E ancora cinema italiano questa settimana. Della prossima uscita in particolare vi avevamo parlato nelle settimane scorse, lo avevamo fatto infatti quando il 6 aprile scorso, in occasione del primo anniversario del terremoto in Abruzzo, Sabina Guzzanti aveva messo online i 2 minuti del trailer per il suo nuovo lavoro da regista. Il titolo della pellicola in uscita questo weekend nelle sale è Dracula. A metà strada dunque fra la cronaca e la satira, questo documentario vicino nello stile a quelli di Michael Moore ragiona su temi estremamente delicati e controversi come quelli dello scarso impegno per la prevenzione del sisma, ma anche dell'utilizzo della tragedia a scopo mediatico e della speculazione illecita ed immorale. Questo terremoto è stato un grandissimo successo, nessun altro terremoto ha fatto l'ascolto che ha fatto questo. Andiamo bene? Ma e le donne dove sono? Tutti gay, tutti gay. La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline. E dunque, alternandosi nei panni propri e in quelli del premier Berlusconi, Sabina Guzzanti prova dunque con questo Dracula a fare luce su uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente. E passiamo alla prossima uscita che la redazione vi segnala. È stabile da ben 4 settimane nelle prime posizioni al box office americano ed esce anche qui da noi Notte folle a Manhattan, Date Night di Sean Levi con Steve Carell. La storia è quella di una coppia di coniugi vittima durante una tranquilla cena in un ristorante di Manhattan di uno scambio di identità che li porta a vivere una serie di situazioni paradossali e ad essere addirittura oggetto di una spietata caccia all'uomo. Ho portato mia moglie a cena fuori. Speravamo di arrivare qui prima, riuscire a trovare un tavolo. Siamo noi i Triplehorn. Prego. Scusate, il signore e la signora Triplehorn. In piedi. Subito. Credevate veramente di poter derubare Joe Miletto? Noi siamo sì. Phil e Claire Foster, ok? È un killer! Stiamo per morire! Non voglio che i miei figli vivano con tua madre, è una strega! E questo era il trailer di Notte Folle a Manhattan, un film con il quale viene spontaneo pensare ad esempio a Fuori Orario di Martin Scorsese, un'altra pellicola che omaggiava a suo modo la notte di Manhattan, intrisa da presenze ambigue ed inquietanti. Questo era l'ultimo film che la redazione vi segnala per questa settimana e vogliamo rimediare allo stop della settimana scorsa recuperando una pellicola in uscita venerdì scorso nelle sale italiane. Si tratta di un altro prestigioso ritorno alla regia dopo quello di Roman Polanski con L'uomo nell'ombra. Stiamo parlando infatti di Alain René, uno dei principali esponenti della Nouvelle Vague francese, che ha 4 anni dal suo Cuori, torna nelle sale italiane con Amori folli. Ancora una volta una produzione condivisa fra Francia ed Italia. La storia è quella di George, che trova per caso il portafoglio smarrito da Marguerite all'uscita da un negozio. L'uomo comincia a fantasticare sull'identità della donna, servendosi delle poche informazioni contenute nel portafoglio, una fantasia che cresce diventando addirittura un'ossessione che porta l'uomo a cercare il contatto con Marguerite, un contatto che riuscirà a trovare e che scatenerà fra i due sconosciuti una passione completamente folle ed irrazionale. Un film questo davvero vivo e imprevedibile, partorito da un vero maestro del cinema che a quasi 90 anni pare non aver perso ancora la voglia e la capacità di stupire ed affascinare. Questo era dunque il nuovo film di Alain René nelle sale italiane già dalla settimana appena trascorsa. E per tutti quelli che alla poltrona del cinema preferiscono la poltrona del salotto, diamo uno sguardo a quanto il palinsesto televisivo ha da offrirci, lo facciamo partendo dalla sera di sabato 8 maggio. Su Italia 1 alle 21:10 in prima serata andrà in onda il film dei Simpson, un lungometraggio diretto nel 2007 da David Silverman, che porta dunque al cinema la celeberrima serie a cartoni, ideata da Matt Groening nel 1989, una serie che è arrivata alla bellezza di 21 stagioni. E la storia è quella della famiglia Simpson che a causa di un porcellino senza colpe supera i limiti di inquinamento sostenibile di Springfield, costringendo il governo ad inglobare la cittadina in una cupola di vetro indistruttibile. E dunque fra le solite gag fulminanti, alieni, spioni, cinismo e satira di costume, la famiglia Simpson cerca di portare le cose alla normalità. E continuiamo con la notte di sabato 8 maggio, con il sabato notte di Rai 3, che riserva sempre piacevoli sorprese ai nottambuli. E alle 2:25 di sabato notte andrà appunto in onda il documentario Woodstock, 3 giorni di pace, amore e musica, un documentario diretto nel 1970 da Michael Woodleigh, che ricostruisce lo storico concerto del 21 agosto del 1969. 400.000 spettatori per quello che è stato l'evento più significativo di una straordinaria stagione di musica e di protesta. Il film documenta le storiche performance, fra gli altri, di artisti immortali come Joe Cocker, Jefferson Airplane, Janis Joplin o Carlos Santana, film tra l'altro che ha conquistato nel 1970 l'Oscar per il miglior documentario. Questa era Woodstock, 3 giorni di pace, amore e musica su Rai 3 nella notte di sabato 8 maggio dalle 2:25. E passiamo a domenica 9 maggio, perché su Canale 5 alle 23:30 in seconda serata andrà in onda La cena per farli conoscere, un film diretto nel 2006 dal regista Pupi Avati. La storia è quella dell'attore di soap opera Alessandro Lanza, interpretato da un grande Diego Abatantuono. Il ricovero in ospedale dell'attore per un tentato suicidio diventa l'occasione per ricostruire il rapporto con tre figlie avute da donne diverse. Ed è un film questo arricchito proprio dalla presenza di una raggiante ensemble di attrici di talento: Stefania Sandrelli, Francesca Neri, Violante Placido, Ines Sastre, Vanessa Incontrada e Francesca Neri, dunque, ad arricchire questa pellicola diretta nel 2006 da Pupi Avati. La cena per farvi conoscere alle 23:30 su Canale 5, domenica 9 maggio. E questo è tutto per il palinsesto televisivo dei giorni a venire. Prima di concludere, come al solito, vi lasciamo con il consiglio cinematografico della redazione. Abbiamo parlato oggi di Abel Ferrara, ed in un certo senso continuiamo a farlo. Il film che questa settimana la redazione ha scelto di consigliarvi è Il cattivo tenente, diretto nel 2009 dal grande Werner Herzog, un remake dell'omonima pellicola girata nel 1992 proprio da Abel Ferrara. I panni del protagonista, che nella versione originale erano di Harvey Keitel, vengono qui vestiti dallo strepitoso Nicolas Cage, un attore sempre a proprio agio nella parte dello squilibrato. Giovanotto, mi dica subito il nome del suo superiore. Al momento sto lavorando, avendo dormito solo un'ora e mezza in tre giorni, e sto cercando di rimanere cordiale. Però comincio a credere che questa cosa mi stia rendendo inefficiente. Forse faresti meglio a schiattare, stronza egoista. E come già in Fitzcarraldo o in Aguirre, Furore di Dio, due classici della produzione di Herzog, il protagonista si regge sul sottile, sottilissimo confine fra la razionalità e la follia, fra la lucidità e il delirio. La storia è ambientata nella New Orleans del dopo Katrina e ruota attorno alla figura di un tenente della polizia con una grave dipendenza da ogni sorta di stupefacente, alla ricerca di un testimone chiave in un caso di efferato omicidio. Il film è uscito in Italia l'11 settembre del 2009, passando praticamente inosservato, e vi invitiamo dunque a rimediare all'errore. Qualora non l'abbiate ancora visto, andate a vedere Il cattivo tenente, un film del 2009 diretto da Werner Herzog con Nicolas Cage. E per questa settimana è tutto. Vi salutano insieme a me la redazione, Teresa ed Eleonora, che anche questa settimana hanno lavorato per rendere possibile questa puntata. Ringraziamo tra l'altro Alessio, oggi nelle vesti di tirocinante alla regia. Vi salutiamo dunque, invitandovi ad andare al cinema. Questo è tutto e ci sentiamo la settimana prossima con l'artiglio. Ciao. Dieci.